Buongiorno, benvenuti al corso con il Torah di oggi. Oggi introduciamo il corso sulla Mishnah con la seguente introduzione e le seguenti considerazioni. Innanzitutto siamo uniti qui per vedere un po' l'anticamera alla Mishnah e capire di cosa si tratta. Sappiamo che la Mishnah rappresenta quello che si chiama Torah Shebe'al Peh, Torah orale. E la domanda è in che cosa consiste esattamente Torah orale? Che cosa è la Torah orale? Qual è il compito della Mishnah nella Torah orale, da dove derivano le conclusioni alle quali arriva la Mishnah, chi l'ha scritta la Mishnah, perché è stata messa per iscritto e così via. Cercheremo anche di capire come è strutturata la Mishnah, qual è la sua logica interna, perché ha chiaramente una logica interna. E la domanda che molti si fanno è per quale motivo tutte queste discussioni? Non ci si può mettere d'accordo? Perché questo Rav dice così e l'altro Rav discute e così via. Così ci sono molte domande che girano intorno alla Mishnah. Cerchiamo di capire una cosa alla volta. Ebbene, noi oggi cercheremo di capire come si arriva fino alla Mishnah. Stiamo parlando di un processo di trasmissione che parte dal momento del dono della Torah ufficiale, cioè il momento in cui c'è stata la rivelazione sul Sinai, e come questa trasmissione è appunto stata trasmessa da quei tempi, passando per il periodo dei giudici, dei profeti e il periodo ancora più tardo, fino ad arrivare al periodo che si chiama comunemente il periodo dei Chazal, cioè dei maestri, Chachameinu Zichronam Livracha, i nostri grandi maestri. Il Rambam, Maimonide, apre la sua opera di Halakha, l'opera di Mishneh Torah, con una versione abbreviata di ciò che scrive in un'altra opera, e cioè una introduzione che appunto ci aiuta a ripercorrere questo processo di trasmissione. Lui apre questa introduzione parlando della maniera in cui Mosè, tornando quindi alle origini, parla della maniera in cui Mosè trasmise la Torah, come la insegnò. E ci dice così, leggeremo insieme. Da, dice, sappi che ogni mitzvah che HaKadosh Baruch Hu ha trasmesso a Mosè Rabbeinu, gliela ha trasmessa con la relativa spiegazione. Cioè, HaKadosh Baruch Hu gli trasmetteva la lettura, per lettura Mikra si intende ciò che poi sarebbe stato messo per iscritto, si chiama lettura perché si legge ciò che è scritto, e poi gli diceva la spiegazione e l'interpretazione, tutto ciò che può essere racchiuso e incluso in quelle parole. Moshe Rabbeinu, sappiamo che è salito sul Monte Sinai, rimasto lì per 40 giorni, HaKadosh Baruch Hu gli ha insegnato non solamente i versetti che noi leggiamo sul Sefer, ma anche appunto la loro spiegazione, che vedremo di cosa si tratta. Il Rambam però prima parla di in che maniera, come dicevo, Moshe Rabbeinu trasmetteva questi insegnamenti. Ci dice così. Moshe tornava con un insegnamento, con un precetto, con una mitzvah o con una indicazione e veniva presso la sua tenda. Nella sua tenda, nel luogo in cui lui insegnava, entrava per primo il suo fratello Aharon, che era il Kohen Gadol, sommo sacerdote. Mosè trasmetteva ad Aaron la parte che sarebbe stata messa per iscritto, quindi il Micrà, e gli insegnava la relativa spiegazione. Aaron veniva via, diciamo, dalla sua posizione di allievo e si metteva alla destra di Mosè, ed entravano poi i figli di Aaron, cioè i Coanim. In quel caso erano Eleazar e Itamar. Visto che gli altri due figli, come la Torah racconta, erano morti. Mosè poi spiegava nuovamente tutto ciò che aveva spiegato ad Aaron, spiegava alla presenza di Aaron, ma con la presenza degli allievi di Eleazar e Itamar, e quindi Aaron aveva già sentito due volte la mitzvah e la spiegazione, e i due figli di Aaron poi si mettevano uno a destra di Mosè ed Aaron e uno a sinistra, cioè uno a sinistra di Aaron, di Mosè, e uno a destra di Aaron. Entravano poi i 70 saggi, i 70 giudici, e Mosè, che insieme a Mosè formavano il grande, la corte suprema, diciamo così, ebraica, ne parleremo più avanti, di 71 giudici. Entravano i 70 maestri e Mosè insegnava a loro così come aveva già insegnato due volte prima ad Aaron e poi ai figli di Aaron. Loro poi si mettevano ai lati e entravano tutti quanti coloro che volevano entrare, quindi entrava il popolo. E Mosè per la quarta volta esponeva lo stesso materiale. Quindi Aaron aveva sentito quattro volte, il popolo al momento aveva sentito una volta sola. Dopo questo, Mosè usciva da questo contesto ed Aaron ripeteva nuovamente, quindi erano presenti i figli, erano presenti i saggi ed erano presenti quelli del popolo che volevano essere presenti, e ripeteva nuovamente Aaron. Dopodiché Aaron veniva via e quindi i suoi figli a questo punto avevano udito quattro volte, cioè 3 volte da Mosè, una volta da Aaron, e loro poi, i figli Eleazar e Itamar, ripetevano di nuovo dopo che Aaron viene via, loro ripetono e spiegano lo stesso versetto e le stesse relative spiegazioni, in questa maniera fino ad arrivare al punto che ognuno dei presenti avesse ascoltato almeno quattro volte tutta la spiegazione. Poi ognuno andava a ripetere agli altri che non erano presenti ciò che avevano sentito da Mosè, e scrivendo le parti che andavano scritte, scrivendole su delle pergamene. E i maestri tra questo pubblico e sicuramente tra i 70 saggi andavano, si spargevano in tutto Am Israel per insegnare, per far ripetere soprattutto l'insegnamento, finché tutti potessero conoscere e sapere ciò che era la lettura e ciò che era la spiegazione di quella lettura. Ora il Rambam ci dice: in che cosa consisteva la spiegazione della lettura? Il Rambam dice due parole: Klalei Inyanim, regole generali, regole e concetti, dei concetti. E cioè, ciò che Mosè trasmise erano anche delle spiegazioni generali, i concetti di regole generali che possono essere applicate a molte situazioni, a molte spiegazioni, dalle quali soprattutto, dalle quali possono derivare, possono essere dedotte tanti ragionamenti. E così Rambam scrive che loro scrivevano ciò che andava scritto e ripetevano a memoria ciò che andava appunto trasmesso oralmente, e da qui deriva il concetto famosissimo, molto noto nelle parole dei nostri Chachamim e nelle generazioni, Torah shebichtav e Torah shebealpeh, Torah scritta e Torah orale. Per Torah scritta in questo contesto si intende i cinque libri della Torah, e per Torah orale tutto ciò che accompagnava questi testi come spiegazione. Quindi Mosè fa scrivere Torah scritta e trasmette una spiegazione oralmente. I nostri maestri hanno detto, cita qui il Rambam, che tutte le mitzvot sono state date da Kadosh Baruch Hu a Mosè assieme alle loro regole, assieme ai loro dettagli e minimi particolari. Per esempio, se noi trovassimo scritto sulla Torah, così come è scritto, Basukot teshevu shivat yamim, cioè risiederete nelle capanne, nelle Sukkot, per 7 giorni, e questo è stato detto da Kadosh Baruch Hu a Moshe, ma a Kadosh Baruch Hu gli ha anche detto, a chi si applica questa mitzvah? Quali sono le eccezioni? Con che cosa bisogna costruire queste capanne? Quali materiali sono validi per formare il tetto della capanna? Devono essere materiali vegetali, staccati dalla propria fonte, e così via. Si mangia, si beve, si dorme nella sukkah per 7 giorni. Le dimensioni della sukkah minime, dimensioni massime, se ci sono, e quando Moshe Rabbeinu poi trasmetteva, per esempio, questa mitzvah, riportava la parte scritta così come era e tutte le relative spiegazioni, nel senso non solamente di interpretazione, ma anche di dettaglio specifico di quella mitzvah. Perché? Perché la Torah doveva essere trasmessa in questa maniera? Perché non si poteva fare in maniera diversa e più semplice, più lineare, forse, di mettere tutto per iscritto? Per quale motivo ci deve essere una fonte e una spiegazione che va ricordata a memoria per capire e per sapere come applicare e per conoscere il vero senso di quella fonte? Non sarebbe stato forse più semplice direttamente mettere tutto per iscritto e trasmetterlo così? Ora che questa sia stata la volontà di chi ci ha dato la Torah, che appunto ci sia questa distinzione tra parte scritta e parte orale, questa è una cosa indiscussa tra i maestri. Al contrario, sappiamo che è una mitzvah, quindi teoricamente un divieto di mettere per iscritto la parte orale. E vedremo più avanti per quale motivo in realtà non si è rispettata questa mitzvah in maniera completa, sicuramente non si è rispettata perché si sono messe molte cose per iscritto. Ci arriveremo. Ma ci chiediamo perché a priori doveva essere in questa maniera e i maestri nel corso delle generazioni e dei secoli offrono diverse spiegazioni. Forse alcuni di voi conoscete quella storiella di un docente universitario che si trovò un giorno davanti alla cattedra o sulla cattedra degli aggeggi elettronici che registravano le sue lezioni. Perché? Perché in questa maniera chi voleva poteva sentire di nuovo la registrazione della lezione e approfondire, ripassare, eccetera. Però piano piano aumentavano gli aggeggi e diminuivano gli allievi, perché i studenti potevano anche tranquillamente dormire nelle loro stanze mentre l'aggeggio elettronico lavorava per loro e registrava, e loro in un momento di maggiore comodità avrebbero potuto accedere a quella conoscenza. Bene, questo finché un bel giorno il professore arriva la mattina a dare la lezione e invece di iniziare a parlare tira fuori un aggeggio elettronico, preme play e questa lezione pre-registrata viene registrata dagli aggeggi degli allievi. Cos'è successo qui? È successo che c'è una mancanza di legame, c'è una mancanza di trasmissione da un essere umano all'altro, da una generazione all'altra, e quindi la prima spiegazione, quella offerta da uno dei maestri, per quale motivo serve un elemento orale nella trasmissione della Torah, È perché se è orale, ti devi sforzare ed impegnare molto di più per conoscerla, per poterla trasmettere, per poterla avere nella tua mente. Ogni cosa che è scontata, perché comunque è un'informazione facilmente trovabile, non viene ricordata dalla mente umana. Facciamo l'esempio semplice dei numeri di telefono. Quelli di noi che non sono cresciuti con la telefonia così come è oggi, ci possiamo ricordare benissimo che conoscevamo tanti numeri di telefono a memoria. Oggi che il telefonino lo ricorda per te, non hai bisogno di ricordartelo e quindi non c'è quell'impegno mentale e non te lo ricordi. Molti di noi non conoscono neanche il proprio numero di telefono. Il senso, la logica, secondo questa spiegazione, nel voler trasmettere qualcosa appositamente, volutamente, in maniera orale, esclusivamente in maniera orale, perché HaKadosh Baruch Hu voleva, ha voluto che noi ci impegnassimo fino a fare dei sforzi, fino a fare dei sacrifici per ricordarci la Torah. Bisogna concentrarsi, bisogna approfondire, bisogna ripetere, ripassare finché ce lo ricorda bene e si può trasmetterlo. Un'altra spiegazione va a trattare il tipo di materiale che la Torah orale contiene, a differenza della Torah scritta. La Torah orale, a differenza appunto della Torah scritta, è in realtà un qualcosa di dinamico, un qualcosa di vivente. Se la Torah scritta non può essere cambiata minimamente, ogni lettera, ogni parola, ogni virgola deve rimanere così, la Torah orale ha delle basi ferme che non vengono cambiate, ma ha degli elementi che sono flessibili, che sono dinamici, che bisogna sapere come applicarli alla situazione specifica, all'epoca storica specifica, al contesto specifico, e tutti questi ed altri elementi possono cambiare il modo che la Torah orale affronta quella situazione o quella determinata domanda o richiesta e così via. Il compito dei Chachamim è di ritenere la Torah orale originale e di sapere come applicarla a nuove situazioni. Ed è questo uno dei motivi per cui la Torah orale, appunto, è appositamente orale. Diciamo che potremmo paragonare, tra l'altro questa è una spiegazione che dà il Maral di Praga, potremmo paragonare magari ad una nave. Una nave che naviga l'oceano, ma al tempo stesso è ancorata. Cioè, se la nave lascia l'ancora ed è ferma, è legata a qualcosa di fermo, a secondo di quanta è lunga la catena, può muoversi, può navigare, ma l'ancora la tiene legata all'origine. E questa è la Torah Shebichtav, la Torah scritta è l'ancora che rimane ferma, e la Torah orale può muoversi sempre legata al punto originale di partenza. Una terza spiegazione che dà uno dei maestri di Rishonim Ritva, Rabbeinu Yom Tov, lui scrive che la Torah scritta doveva rimanere scritta perché per la precisione e l'esattezza che la Torah scritta richiede proprio in come è scritta, in quanto molti aspetti della Torah orale si appoggiano a delle esattezze, delle precisazioni nella maniera in cui è scritta la Torah scritta. Hanno queste allusioni e altri aspetti come appoggi. E questi sono dettagli e sono concetti che difficilmente o quasi impossibile che siano trasmessi a voce, che siano trasmessi oralmente. E per questo i maestri dicono che ciò che è scritto non può essere trasmesso oralmente. In altre parole, il contrario dell'atteggiamento verso la Torah orale, che essendo orale deve rimanere orale, al contrario, la stessa cosa valida e vale viceversa anche per la parte scritta. Cioè la parte scritta deve per forza essere trasmessa così come è scritta e non oralmente. E quindi forse aggiungiamo un altro aspetto è quello della particolare santità, la Kedushah, che esiste nelle parole della Torah scritta. La Torah scritta rappresenta la parola di Hashem e la Torah orale invece rappresenta la parte che Hashem ha dato all'uomo. Essendo questa Kedushah parte della Torah scritta, non può essere cambiata, deve essere scritta per appunto, come dicevamo prima, per l'esattezza, la precisione con la quale deve essere trasmessa. Invece la Torah orale ha la propria Kedushah, ma è un altro tipo di Kedushah. È la Kedushah che HaKadosh Baruch Hu dà all'uomo. Allora significa, se l'Hechal, il luogo in cui si pone l'Arona Kodesh, l'arca sacra, il luogo in cui si pongono le tavole della legge, il luogo in cui si pone il Sefer Torah, quello è il contenitore, per così dire, della Torah scritta. Qual è il contenitore della Torah orale? Il contenitore della Torah orale è il cuore e la mente di Am Israel, di ogni ebreo. Quello è l'Hechal che contiene la Torah Shebe Alpe, la parte della Torah che deve essere trasmessa oralmente. È lì che si sviluppa, è lì che si capisce, si approfondisce come applicarla e così via, come vedremo. Ora, come si arriva da questa spiegazione trasmessa da Mosè fino alla Mishnah? Allora, la Mishnah, che è il soggetto di questo corso, la Mishnah è stata scritta intorno al secondo secolo dell'era volgare. Mentre Moshe Rabbeinu ha insegnato più circa 1500 anni prima di quello. Cosa è successo nel mentre? Allora il Rambam continua a descrivere la trasmissione della Torah dicendo così: quando Moshe Rabbeinu concluse di trasmettere la Torah, e non intendiamo dopo i 40 giorni, ma dopo i 40 anni, alla fine dei 40 anni di quando gli ebrei erano nel deserto, e i maestri indicano, basato sulla Torah, una data che è il Rosh Chodesh, il capomese del mese di Shevat, poco più di un mese prima della morte di Mosè, circa 5 settimane prima della morte di Mosè. Allora Mosè fece riunire tutti gli ebrei e disse loro, come la Torah ci racconta nel libro di Devarim, Hen karvu yamai lamut, stanno giungendo i miei giorni alla loro conclusione, alla morte, e chiunque abbia sentito da me delle spiegazioni, delle trasmissioni, che non sono quelle che sarebbero state messe per iscritto, ma quelle che sarebbero state trasmesse oralmente, venga da me a riproporre, rifarmi sentire quello che ha studiato da me, in modo tale che ci sia la possibilità di chiarire, nel caso fosse necessario, dei dettagli o delle correzioni eventuali. E chiunque avesse un dubbio, quindi una scelta, delle domande da fare su ciò che abbiamo studiato, venga e se lo faccia chiarire da me. Mosè, prima della sua morte, si occupò quindi di questo e si occupò di scrivere, cioè di copiare la scrittura della Torah, della pergamena, il rotolo del Sefer, e la tradizione racconta che ha copiato per 13 volte tutto il Sefer, quindi ha creato 13 Sefer Torah, Sifrei Torah, che vanno dall'inizio alla fine, da Bereshit fino alla fine della Torah. Gli ultimi versetti della Torah che si occupano della morte di Mosè, su questo c'è una discussione nel Talmud, se fu Mosè che scrisse questi ultimi versetti profeticamente, c'è una fonte che dice che scriveva e piangeva. Un'altra opinione è che questi furono scritti da Yoshua, dal suo successore, da Giosuè. Però, tornando alla nostra fonte, perché scrisse 13 copie? Perché diede una copia ad ognuna delle tribù. La Koach e Sefer HaTorah Zeh, questo lo disse alla tredicesima tribù, tra virgolette, cioè la tribù di Levi. Alla tribù di Levi diede l'ultima, la tredicesima copia del Sefer Torah e disse loro di porlo accanto all'arca santa dove c'erano l'Arona Kodesh con le tavole, con le Luchot, e poi salì su sul monte dove. Lì a Kadosh Baruch Hu si riprese la sua Neshama e lì morì Moshe Rabbeinu il giorno 7 del mese di Adar. Questo tredicesimo libro era rimasto lì in quel luogo, nel Bet HaMikdash, ed era chiamato, dice il Rambam, Sefer HaAzara, il libro dell'Azara del Bet HaMikdash, ed era considerato il libro più esatto. E da questo libro facevano il controllo di revisione sugli altri libri, altri sefarim. Libro, il sefer si intende una pergamena. Ora, se così fosse così semplice, come ha descritto il Rambam, che Mosè spiegava la mitzvah, quale parte andava messa per iscritto, quale parte andava spiegata oralmente e tutto era così chiaro, da dove nascono tutti i dubbi e tutte le discussioni? Allora il Rambam ci dice, quando morì Moshe, Alav Shalom, e aveva appunto già trasmesso a Yoshua tutte le spiegazioni che gli erano stati dati, gli erano state date, e Yoshua e i maestri della sua generazione si occuparono dello studio della trasmissione di ciò, e lì ancora non vi erano discussioni. Non che non vi erano dubbi, cioè si verificavano situazioni in cui bisognava capire e chiarire come applicare l'alacha, come applicare la regola. Però avevano dei metodi che erano stati trasmessi da Mosè per arrivare alle conclusioni. E cioè, in generale, si parla di 13 regole generali per l'esegesi dei versetti, cioè Yud Gimel Midot Torah Nidreshet Bahen, 13 metodi per spiegare i versetti della Torah. E quindi, rispetto a queste regole, cioè impiegando queste regole, arrivavano a delle conclusioni, magari potevano arrivare a volte a delle conclusioni diverse, cioè un maestro poteva arrivare ad una conclusione e un altro ad un'altra conclusione. Come si fa? La Torah lo dice, la Torah lo prevede. La Torah dice, Acharei Rabbim le Hattot, in quel caso i maestri devono andare secondo la maggioranza delle opinioni tra i Chachamim. E quindi, una volta stabilita la maggioranza, la regola veniva stabilita. E questo, tra parentesi, tutto ciò doveva seguire questo iter qui e non seguire delle informazioni divinamente ispirate come attraverso la profezia. Cioè, anche quando avevamo la fortuna di avere i Nevi'im, i profeti, il ruolo del Navi non era di spiegare la Torah in questo senso, cioè con la profezia. Se il Navi fosse un Chacham, un maestro, che ha ricevuto dalla precedente generazione di maestri, poteva esporre la sua opinione o la sua decisione a riguardo di una domanda di Halakha, ma come essere umano. Non come profezia. La profezia è fuori da questo ruolo alachico. Anzi, un profeta che esprime un'opinione di Halakha basandosi sulla profezia, non può essere considerato un profeta valido o abusa della profezia. È un problema, è un peccato, una verità. Bensì, questo doveva seguire quest'iter qui, e cioè che HaKadosh Baruch Hu trasmette la Torah con le relative norme di come spiegare la Torah, con le relative spiegazioni orali, e di generazione in generazione va trasmessa ed approfondita ed applicata secondo queste regole. La Torah viene data ad Am Israel. Noi diciamo Baruch HaTashem Noten HaTorah, colui che ci ha dato la Torah. Per dare si intende un dono che è un passaggio di proprietà. La Torah è in mano agli uomini che l'hanno ricevuta e non, per così dire, in mano al cielo. Questo lo diciamo tra parentesi e proseguiamo con il nostro discorso qui. Ci sono molte cose che non abbiamo sentito da Moshe Rabbeinu. Ci sono, come dicevo prima, nuove situazioni che si verificano. Forse quando erano nel deserto erano più semplici le cose, ma poi entrando in Eretz Israel e nelle varie evoluzioni di come funziona la vita e la società, molti aspetti possono cambiare, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista teorico, e di conseguenza la Torah deve interagire, diciamo così, con una realtà che forse prima non ne eravamo a conoscenza. Noi dobbiamo avere la possibilità di vedere nella Torah anche come affrontare queste situazioni. E questa è una delle funzioni della Torah Shebeal Peh, cioè Moshe Rabbeinu ha dato delle chiavi, dei metodi di approfondimento, di comprensione, per estrapolare il significato anche non immediatamente evidente dei versetti della Torah. E questi, come dicevo prima, sono i 13 metodi, Shlosh Esrei Midot. È come avere un laboratorio dove si può prendere un elemento e metterlo sotto dei test, degli esami di laboratorio che possono tirar fuori da questo elemento moltissimi dettagli. E se non fosse sottoposto l'elemento a questi test di laboratorio, se non fosse sottoposto a questi strumenti, non sarebbero venute fuori queste idee. Allora, noi abbiamo un laboratorio, cioè una cassa di strumenti per poter affrontare la Torah. Faremo più avanti degli esempi di questi strumenti. Ora, come dicevo prima, questi strumenti stanno in mano ai Chachamim e non in mano ai profeti, cioè la rivelazione della Torah a livello divino da HaKadosh Baruch Hu nei confronti del popolo rimane una cosa unica, accaduta solamente nel momento del dono della Torah sul Monte Sinai. Successivamente i profeti avranno altri ruoli, cioè di trasmettere al popolo non nuovi messaggi, ma di portare il popolo a rispettare gli stessi vecchi messaggi già inviati, già trasmessi. E ci sono eccezioni, cioè il profeta aveva a volte anche dei ruoli particolari, ma in generale il ruolo del Navi, e ognuno che apre i libri dei Nevi'im può vederlo. Il ruolo del Navi, il ruolo del profeta è proprio quello di rafforzare nel popolo l'osservanza della stessa Torah e le stesse mitzvot che sono state date in origine e non di dare nuove indicazioni. L'unico profeta che invece è quello attraverso il quale sono venute nuove indicazioni è proprio Moshe Rabbeinu. Come vedremo. Ora, la Torah è trasmessa a tutti, una generazione trasmette alla prossima generazione, ma è chiaro che ci deve essere qualcuno che è responsabile di questa trasmissione. Moshe Rabbeinu era responsabile al tempo suo e lui ha trasmesso la Torah a tutti, ma la responsabilità della trasmissione l'ha trasmessa a Yoshua, a chi ha preso il posto di Moshe Rabbeinu. E non è un'unica persona in realtà. Quando si parla di Moshe e il suo Bet Din, quindi la sua corte, quei 70 saggi, e così anche per Yoshua e per le successive generazioni. Parliamo di un gruppo di persone che rappresentano il Bet Din Agadol, Bet Din Gavoa, la corte suprema ebraica, che ha questo ruolo, soprattutto quello di mantenere e di trasmettere tutta l'interità della Torah, orale e scritta. La Torah parla di questo gruppo, parla della formazione di questo gruppo, e in particolare nel libro di Devarim, la Torah parla dei problemi, dei dubbi che potrebbero nel tempo verificarsi e come sciogliere questi dubbi. La Torah parla proprio esplicitamente di dubbi nell'Halakha in diversi ambiti halachici. Si può leggere la Torah sul libro di Devarim, al capitolo 14, versetti 8 a 12, 14, versetti 8 a 12, dove la Torah ci dice che nel caso del dubbio, da parte di Chachamim locali, bisogna accedere a livelli più elevati del Bet Din, fino ad arrivare a quello dei 71 saggi che si trovava presso, vicino al accanto al Bet HaMikdash, a Gerusalemme, e loro avrebbero avuto appunto la parola finale sulla sentenza richiesta, e quella e il seguire quella indicazione è una mitzvah della Torah. La Torah dice Ve'asita, tu dovrai agire al pi adavar asher yagidu lecha, secondo le indicazioni che loro ti daranno. Questa è una mitzvah positiva, cioè noi dobbiamo, per una delle 613 mitzvot della Torah, è quella di seguire le indicazioni dei chachamim. E c'è anche una mitzvah negativa, cioè sarebbe una trasgressione se non lo facessimo, in quanto la Torah aggiunge anche l'aspetto negativo. Lo tassur, non andar fuori minadavar, cioè non andare, non virare oltre le parole che saranno dette da te, dai chachamim a te, né a destra né a sinistra. Minadavar asher yagidu lecha, yamin usmol. Quindi la Torah ci sta dicendo come sarà gestito il diritto ebraico per la posterità, per tutte le generazioni. E Rambam scrive, il Bet Din HaGadol, questa grande corte, Sheb Yerushalayim, che si trovava quando i tempi erano buoni a Yerushalayim, Em Ikar Torah Shebe'al Peh, sono loro che sostengono, che rappresentano la Torah Shebe'al Peh, la Torah orale, Behem Amudei HaHora'ah, loro sono le colonne, i pilastri della istruzione della Torah, e da loro viene emanato Chok U'Mishpat L'Chol Yisrael. Viene emanata da loro la legge e la giustizia, gli statuti per tutta Israel, e riguardo a loro la Torah dice ciò che ho citato prima, le mitzvot relative al dare retta, all'ubbidire le parole dei Chachamim e al non uscire fuori dalle loro parole. E il Rambam conclude qui con una frase molto forte: chiunque crede in Moshe Rabbeinu e nella sua Torah, nella Torah che lui ci ha trasmesso, è obbligato ad appoggiarsi per tutto ciò che riguarda la legge ebraica. Quindi non stiamo parlando di religione nel senso che si usa normalmente l'aspetto religioso della vita, ma tutto ciò che riguarda vita ebraica, che sono leggi civili, leggi rituali, eccetera, tutto si appoggia su il Bet Din HaGadol, sulle decisioni e sulla legge emanata dal Bet Din HaGadol. E così, nelle generazioni, dai tempi di Mondato Vava, ha trasmesso ai saggi del suo tempo, ancora andava avanti così per diverse generazioni, anche nell'epoca dei profeti. I profeti, i quali, i maggiori dei profeti, più importanti come Shemuel, ricoprivano anche questo ruolo halachico qui. Cioè, abbiamo fatto prima la distinzione tra il ruolo dei Chachamim, ma spesso la stessa persona ricopriva entrambi i ruoli, con le dovute, tenendo la dovuta distinzione tra i due ruoli. Ogni generazione, dice Rambam, riteneva ciò che era stato trasmesso dalla generazione precedente e costruiva su di questo, cioè approfondiva, arrivava a delle conclusioni legate alla situazione del momento basato sulle basi già trasmesse in precedenza. E su quelle basi non c'erano discussioni. Su quelle basi non c'erano discussioni, almeno per il momento. E questo così è andato avanti per diverso tempo. Cosa è successo più avanti? La Torah orale quindi si basa sulla trasmissione, sulla tradizione trasmessa. Una cosa continua, una continuità di trasmissione e di tradizione dai tempi del Monte Sinai fino ad oggi. Quando noi ci occupiamo di un determinato concetto, cerchiamo di arrivare alle basi originali sui quali si basa il concetto, ed è sempre passando attraverso la trasmissione generazionale. E così dai tempi di primi re, il primo Bet HaMikdash, e poi la divisione in Eretz Israel in due, dopo Davide e dopo Shelomò, l'esilio del regno di Israel, le 10 tribù, l'istruzione del primo Bet HaMikdash e l'esilio conseguente in Babilonia e le altre tribù. Arriviamo al circa al quarto gare, il momento in cui iniziano a tornare dall'esilio babilonese. Stiamo parlando poco dopo la storia della festa di Purim. Ezra e Nehemia ricostruiscono l'ebraismo in Israele, ricostruiscono il Bet HaMikdash, parliamo quindi della costruzione del secondo Bet HaMikdash. Ancora, anche se sono ancora, questo con le grazie della, perché sono ancora sotto il dominio persiano, un'indipendenza politica, e in quel periodo viene stabilita, viene creato un gruppo, una grande assemblea creata con la guida di Ezra, che si chiama Anshei Knesset HaGedolah, gli uomini della grande assemblea, letteralmente, che è il più grande, ovviamente parliamo di un corpo riconosciuto, parlavamo di il Bet Din di 71 saggi, questo era chiamato il grande, la grande assemblea, perché era formata da 120 grandi maestri, tra cui c'erano anche alcuni profeti ancora, gli ultimi profeti, Haggai, Zecharia, Malachi. E tra le persone del gruppo viene menzionato anche Mordecai, quello della storia di Esther, e così quella trasmissione di cui parlavamo andò avanti fino ad arrivare ai tempi dell'Anshei Knesset HaGedolah, dei uomini della grande assemblea. E qui siamo in maniera, non che non è esistito prima, da questo momento in poi diventa una cosa molto più strutturata, l'idea che questo grande Bet Din ha la facoltà di creare delle norme che si chiamano Gezerot veTakanot, che letteralmente sarebbe come dire decreti e istituzioni nuove, se vogliamo, di legge. Con quale fine? Il decreto è soprattutto ciò che molti conoscono, l'idea della siepe intorno alla Torah, cioè delle restano per limitare la possibilità di arrivare alla trasgressione della regola della Torah. istituzioni che possono essere legate a diversi elementi nella vita dell'ebreo. Per esempio, entra sotto la voce nuova istituzione, che diventa un obbligo, diventa una mitzvah, rispettare quella festività, quella occasione. È stato fissato questo obbligo dai Chachamim con la facoltà che vedevamo prima, la Torah ha dato loro. Esistono per mantenere viva la vita ebraica e mantenerla strutturata, come per esempio lo stesso, parliamo di Knesset HaGedolah, i maestri della grande assemblea, sono quelli che diedero l'impronta formale ed ufficiale ed uniforme alle tefilot, alle formule che usiamo per recitare Berachot, Birkat Hamazon, le tempistiche delle tefilot e così via, il Kiddush, eccetera. E quindi una nuova era, che è l'epoca dei Chachamim. L'ultimo membro della Knesset HaGedolah, quindi quello forse più giovane, forse quello rimasto più a lungo in vita dopo che il gruppo ormai non c'era più, era Shimon HaTzadik, veniva chiamato così, ed era, scrive il Rambam, che era Kohen Gadol, il sommo sacerdote, il Kohen Gadol della sua generazione. Ecco ufficialmente l'epoca dei Chachamim. Lui è il primo tra i maestri che si chiamano Tanaim, che sono i maestri citati nell'opera della Mishnah. Allora, quando arriviamo a Shimon HaTzadik, arriviamo al punto in cui inizia, non c'è ancora la Mishnah così come la conosciamo oggi, e sicuramente non per iscritto, ma inizia qui il periodo dei Chachamim, che fanno come non dico un riassunto, ma ricevono tutto ciò che è stato trasmesso fino a quel momento. Molte cose dagli Anshei Knesset HaGedolah sono state formalizzate, ufficializzate, se vogliamo, rese più uniformi di quanto lo erano al momento, e ora si inizia ad approfondire, ad entrare nei dettagli di tante situazioni che potevano in quel momento ancora non essere chiare per, come dicevamo prima, le novità, i cambiamenti nella vita e così via. Anche il fatto stesso di una società che si basa su una società agricola rispetto a quello che poi diventa una società basata su attività diverse, questo stesso è un fortissimo elemento nel dover approfondire le fonti per capire come applicare le regole. Quindi la Torah Shebe'al Peh nasce nella trasmissione esatta della halachot, delle indicazioni, delle interpretazioni, delle spiegazioni della Torah, così come sono stati trasmessi già dai tempi di Mosè, e questo è stato trasmesso sempre nelle generazioni, e dall'altra parte l'autorità e l'autorevolezza che ritengono i Chachamim della generazione, approfondire ulteriormente, secondo le regole, i metodi, gli strumenti di cui parlavamo prima, ed arrivare a conclusioni nuove su questioni che non erano stati affrontati o che non erano stati affrontati in tutti i dettagli relativi a quelle situazioni, e trovare nella Torah e nella trasmissione orale delle soluzioni, secondo appunto, secondo questi strumenti. Quando parliamo di Chachamim, bisogna fare un appunto, parliamo del corpo giuridico riconosciuto da tutto il popolo ebraico, accettato, cioè le quali norme, le quali sentenze sono accettate da tutto il popolo ebraico. E vedremo fino a quando nella storia esiste un corpo di questo tipo. Così la Torah scritta e orale si è trasmessa da generazione in generazione, fino appunto che siamo arrivati alla Anshei Knesset HaGedolah, che come abbiamo detto hanno avuto hanno lasciato un'impronta fortissima sulla struttura dell'ebraismo, e l'ultimo Tamim era Shimon HaTzadik, che apre l'epoca dei Tanaim, e cioè i maestri della Mishnah. Con i maestri della Mishnah andiamo ad aprire tutta una nuova epoca, e questo lo approfondiremo nella prossima lezione, se Dio vuole.